Sombre, glaciale, dangereuse. Thank you. Thank you. sommes les enfants de la tour. Mechanical clouds will induce heavy rainfall in 10 seconds. Water acidification level estimated at 8.4. Clear skies over central sector and southeast perimeter. Thank you.

surfaces as a possible shape for a two-dimensional universe. resuscitato per noi la salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti. dit déjà, la télévision, des voix et des visages, ils sortent des petites boîtes. J'entends déjà des voix et plus qu'à.